Fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti su Risto Radio Convento. Io sono Master Nick, un altro sabato sera live dal nostro ristorante, ovviamente Convento di Lonato, e live anche dalla nostra web radio, non solo come dire on air, non ci state ascoltando solo, ci potete anche vedere, basta che andate sulla nostra pagina Facebook, abbiamo già il primo mi piace, sarà, chi è? Vostro amico Sergio, Sergio Rizzardi, vi dice qualcosa? Forse è il mio vicino di casa. E il vicino di casa. Attenzione, però, che abbiamo un vicino di casa stalker. Non so che spia, che spia. Non siamo soli, come avete capito, perché siamo in compagnia di una delle festeggiate di questo sabato sera. Non è l'unica, come è giusto che sia, ma è una tra le più importanti che volevamo conoscere, volevamo far chiacchierare con noi. E allora benvenuta alla nostra amica. Sei tu. Io? Sei tu, Alessia. Certo. Alessia, no, ti stavo solo dicendo di parlare vicino al microfono, così ti sentiamo meglio. Alessia, ok, molto bene. Allora, aspetta, Alessia, facciamo, se ti va, prima di presentarti, visto che abbiamo qualche minuto, abbiamo Facebook, un esperimento social, ok? Qui sei vicino a tue due amiche, giusto? Ma un po' sono rimaste al tavolo, ok? Quindi adesso live prendi il tuo telefonino che hai davanti ai tuoi occhi e mandi un messaggio a qualcuno del tavolo e dici di andarti a vedere e sentire sulla nostra pagina Facebook e vediamo quanti prendono in mano il telefono e vanno a curiosare. Poi ti conosciamo meglio. Intanto vai, conosciamo, intanto che le scrive, conosciamo anche le amiche. Benvenute. Alessia, stranamente, è un'altra Alessia, non fatevi ingannare dal nome, è un'altra. Ah, l'Alessia bionda. Quindi c'è l'Alessia bionda e l'Alessia mora. E poi abbiamo? Laura. Laura, benvenuta. Laura che è un po' fuori dal tempo perché non ha Facebook. L'abbiamo cercata per taggarla nella nostra diretta, ma non ha Facebook e quindi niente, non ce l'abbiamo fatta. È ancora agli anni 80, giusto? Si è fermata lì. E come, allora intanto dici come mai non hai Facebook e hai questa scelta controcorrente? No, non uso Facebook perché uso Instagram. Ah, perché usa Instagram? Cioè. Perché tu sei giovane dentro. Ma anch'io so Instagram. Ma perché lei li ha tutte e due, no? Perché i giovani adesso dicono che usino Instagram, quindi confermate. Sì. Quindi voi siete vecchie perché avete sia Instagram che Facebook, ma e lei no. È giovane perché ha solo Facebook. No. No. No, hai mandato un messaggio intanto? Sì. Oh, benissimo. Non mi risponde benissimo. Nessuno. Non ti rispondono, ma perché probabilmente stanno meglio senza di te. Ma oh, no, dici no. Non lo so. Vediamo, guardate il telefono. Adesso cerco di comunicare. Ecco, guarda, una sta tirando fuori il telefono dalla borsetta. Forse è quella giusta. Noi continuiamo. Mi è uscito anche a me, ristorante Convento in diretta. Siamo noi, certo. Hai visto che bella cosa? Sì. Vediamo. Vai. Andate, hanno capito, vediamo se recepiscono. Allora, intanto possiamo finalmente conoscere la protagonista di questa serata, che è Alessia Mora, così la distinguiamo da Alessia Bionda. Alessia, dirci un po', intanto da dove vieni? Allora, io vengo da Carpenedolo. Che per gli amici del Sud Italia si trova? Provincia di Brescia. Perché no, noi lo diamo per scontato perché siamo di qui, però magari uno di Napoli, di Catanzaro che ci sta ascoltando, capisci che non ci aiuta. Attenzione, c'è una faccina che ride di Eleonora Salvi. Sì, è al tavolo? Vai! E allora esperimento social riuscito, perché adesso lo possiamo svelare a loro che stanno ascoltando dal tavolo. Abbiamo chiesto ad Alessia di mandarvi un messaggio e cercare di vedere se interagivate con la nostra diretta. Avete recepito grandi, c'è anche un Lupasco Madalina. E un'altra? Sì, è l'altra. No, due su due. Stiamo andando fortissimo, grande successo. Allora, quindi abbiamo detto da dove vieni, e grazie. E la cosa più importante però è come mai sei al convento questa sera? Sono al convento per festeggiare i miei 18 anni. Oh, compiuti quando? Il 17 di aprile. 17 di aprile, quindi a metà di questa settimana. Mercoledì, molto bene. E come ti senti? Domanda scontata che facciamo un po' tutti, ma è quella giusta da fare. Mi sento bene, contenta, ho scelto un posto stupendo. No, bene. Ma hai cambiato qualcosa? Anche qui domanda che facciamo a tutti. È cambiato qualcosa rispetto a 4 giorni fa? No. In che senso? Non lo so, ti senti diversa, i tuoi ti rompono già più le scatole, ti fanno essere un po' più adulta. No, quello no. Attenzione, Eleonora Salvi, che adesso è impazzita la follia di Facebook, chiede se può cantare. Sì, perché lei canta. A lei canta, dopo Eleonora. Dopo Eleonora. Tra l'altro mi piace che lo chieda dal tavolo. Nel senso, non so come possa cantare. Beh, potremmo farla cantare. Facciamo un mega esperimento social. Chiama Eleonora Salvi, la facciamo. No, dal telefono, la facciamo cantare dal tavolo nel microfono. No. Vuoi cantare? Vuoi cantare? Vieni. Ah no, vieni qui. Sarebbe stato bello. E beh, al contrario di come hai fatto prima. Quindi basta che giri al contrario. Sì, è la legge della fisica. Benissimo. Attenzione, arriva Eleonora Salvi, grande protagonista di questa... Lei è una brava cantante. Questa canzone me la dedicherà sicuramente. Oh, vai. Non è sola, perché vedo... Ciao, eccola Eleonora Salvi. Tutti la volevano conoscere. Allora, ragazzi, siamo anche in diretta webcam, come avrete capito. Sì, ma perché la... Come dire, sono gli ormoni dei diciottenni. Quindi c'è un nuovo ormone che gira. Allora, prima di fare esibire Eleonora... Mi spiace perché era quella che commentava con più ardore e mi spiace aver perso la top commenter della nostra diretta. Ma adesso il top è farla cantare. Ah, no? Certo. Allora, no, dicevamo, quindi hai compiuto gli anni il 17. Sì. Benissimo. È cambiato nulla? No? No. E tu, allora, qual è il regalo che volevi per i tuoi 18 anni? Ti è arrivato? Sì, la macchina. La macchina? È così, boom. Cazzi. Sì, mi hanno regalato la macchina. Era Eleonora Salvi questa? La faccia del regalo. La faccia del regalo, sì. Vedi. Ma quale? Open Corsa. Ah, la Open Corsa. La mia macchina preferita. Ma i tuoi te l'hanno regalata? E come ti è arrivata? Cioè, intanto lo sapevi? Li avevo sgamati. Ah, sì, li hai beccati? Sì, un giorno aveva chiamato... il proprietario della macchina e ho risposto io e ho trovato la macchina. No, sì. Non ci credo, bellissimo. Ma te l'hanno infiocchettata, impacchettata, sì, qualcosa? Sì, ho girato l'angolo di casa e ho trovato la macchina con i fiocchi, i palloncini. Oh, bello sorpresa. Dai, immagino. Quante fiancate hai già rovinato? Zero, perché non ho ancora la patente. Non ci credo che non l'hai neanche provata. Sì, l'ho provata, però no. L'ha provata. Allora, vai, momento patente, a che punto sei? Devo dare l'esame di teoria a giugno. Ah beh, ancora è ancora lontano, quindi. Ma no, è vicino, dai. No, è vicino alla teoria, poi c'è tutta la pratica. Non so se te l'hanno detto, che sì, poi sì. Non è che impari a guidare sui libri. Devi anche no, sederci, ma... Ah, ok. Bene. Quindi abbiamo detto il tuo desiderio. Nella vita cosa fai? Immagino parrucchiera. Ah no, hai già finito di studiare. Sto facendo l'ultimo anno, a giugno finito. Però lavoro in stage. Ah, ok. E quindi immagino vorrei poi continuare. Speriamo di sì. Dove? Carpenedolo, sempre. No, fai pubblicità. Ah, freestyle Carpenedolo. Bene, avrete un sconto di 4 centesimi se vi presentate a tagliarvi i capelli dicendo sono amico o amica di Alessia, giusto? Sì, Vero, tra l'altro ci ha chiamato il titolare, ci ha detto che possiamo fare questo tipo di sconto. Allora, il grande momento che tutti aspettavano, abbiamo un attimo, come dire, creato della suspense e dell'attesa, la canzone di Eleonora Salvi. Cosa vuoi cantare? Allora, ah no, aspetta, che c'è la, come si chiama, Georgina, giusto? Georgiana, perdona. Maddalena, è lei. Maddalena, lì, no, diceva che ha voglia di sentirti cantare. Oh. Quindi, cosa vuoi cantare? Però solo se la dedichi ad Alessia. Ok. Cosa? Purtroppo. Prima dici il titolo, così la sanremizziamo, no, un po'. Sto pensando? Dai, ma hai chiesto di cantare da là? Ma hai chiesto dai, di cantare vai. Da là e da là a qua non hai pensato a cosa? Distratto, dai. A chi? A chi distratto? Distratto a chi? Francesca Michelin. Ah, ho capito, fosse un'offesa, distratto. No. Ah, il titolo, scusa. È il titolo della canzone, pensavo distratto. Ce l'avessi con qualcuno. Distratto. No. Allora, vai, dedicata ad Alessia, qualcuno... Ma non c'è la base, però. Ma no. Che base? Ma no. Cos'è? Ma cos'è? Sì, cos'è? Dai, Festival Bar? Mica, mica The Voice. Base. Ma che base? Dopo cantiamo con la base, ma di là. Questa è un'altra stanza. Adesso, così, en passant. Così. Allora, come saprei di Giorgia? Come saprei? Perché cambia. Senza sì, base, cambia. Con base cambia la canzone. Cambia. Giusto? Allora, qualcuno la vuole annunciare in modo molto sanremese? Dai, io. Vai Alessia, vai. Ecco a voi Eleonora Salvi. Sono di Brescia. Ma non ti puoi annunciare da sola. Se c'è un annunciatore, fai finire l'annunciatore. Esatto. Rifo. Mezzane Brescia, attenzione. Ci canterà Come saprei di Giorgia. Tocca a te. Prego. Okay. ma dai, così mi sento un po' osservata. Va bene, per forza. Va bene, ok, dai, vado. Che è lei che è andata? Vabbè, dai, tocca. No, dai, mi sento osservata. Ah, vabbè, non ti guardo. Alle tre, okay, alle tre vado, chiudiamo, vado. Come saprei capire l'uomo che sei, come saprei scoprire poi le fantasie che vuoi. Brava! Auguri! Bello, bello! Auguri, bene, bene, bene. Sei stata contenta, Alessia? Sì, sì, sì. Sei disposta a rinunciare alla tua macchina e a rivenderla per questo regalo di Eleonora? No. Ah, ok. No, niente, no. Speravo. No. Mamma mia, che amica, proprio la un'amica. Non si tocca. Per un attimo ho sperato che tu in un gesto di bontà. No. La mia macchina non si tocca. Non si tocca, non toccatele la macchina. Ok, ragazzi, allora aspetta, abbiamo presentato Eleonora, abbiamo presentato l'Alessia Bionda, abbiamo presentato Laura. Bye bye! E poi manca il Kendall e Kylie Minogue, come si chiama? Vai, vai sul microfono. Ma anche senza cuffia, tranquilla. Scalmananna. Ok, Scalmananna. E che nome è? Bellissimo. No, beh, interessante. Ma di dove sei? Pisano. Ah, ok, italiana. E pensavo fosse un nome particolare. No, è Scalmana il cognome. Ah, Anna. L'ha detto Scalmananna e pensavo fosse... Scalmana. Ah, Anna, ok, io pensavo fosse un nome particolarissimo, un po' finlandese, nordico, no, Anna. Ok, ragazze, volete dire qualcosa alla vostra Alessia per il suo compleanno? Ma ti voglio era, bene, grazie questa, di tutto. Era Eleonora o Fabio questa? Che Fabio? Fabio! Ah, era Eleonora, no, pensavo fosse la tua parte maschile, no, che veniva fuori. Ok, dai, volete dirle qualcosa? Io. Vai, Scalmananna. Italiana. Vai, Scalmananna. Grazie di tutto quello che fai per me. E vabbè, sono contenta perché da giugno, quando prenderai la patente, prima domenica al Coppelia. Hai capito l'affetto delle amiche che sì, si percepisce. Patente, ma è sempre così, è sempre così. Va bene, allora ragazze, grazie mille per essere state con noi. Immagino che il primo sia quasi caldo e pronto per essere mangiato da voi. E quindi vi faccio tornare ad accomodarvi. Però facciamo ancora gli auguri, cogliamo ancora l'occasione per fare gli auguri alla nostra Alessia, 18 anni, da mercoledì. Quindi ormai 3 giorni, 18enne. Auguri Alessia. Grazie. Grazie. Yeah.